Letture di Radio 24. Wikipedia, l'enciclopedia libera. Uno strumento di conoscenza a cui tutti gli utenti della rete possono accedere, non solo come fruitori, bensì come autori. La piena condivisione del sapere. Questa piattaforma si organizza diversamente rispetto ad altri grandi portali come Google o Facebook. Gli utenti non trovano pubblicità tra le sue pagine. Lo scopo commerciale è perseguito in misura nettamente minore. Roberto Casati, sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore domenica, racconta l'attualità di Wikipedia, una realtà diversa del web 2.0, a volte controcorrente, alla luce degli avvenimenti che l'hanno coinvolta in questi ultimi mesi. Di recente ho messo un po' d'ordine nella trama dei Promessi Sposi. Ho eliminato un paio di passaggi poco chiari e ho cancellato un'inutile ridondanza. C'erano degli errori marchiani. L'incontro di Don Abbondio e dei Bravi non ha senso che avvenga dopo la morte dell'innominato. Megalomania? No. Stavo semplicemente facendo un po' di pulizia in una voce di Wikipedia. Da molti anni faccio dei piccoli ritocchi all'enciclopedia online. Sono da qualche tempo anche un utente registrato, senza essere un editor accanito. Ogni tanto do il mio contributo su cose che conosco o più in generale per porre rimedio a problemi stilistici. C'è chi è molto più attivo e vigile di me. Nel caso della trama dei Promessi Sposi, le mie correzioni sono state revocate nel giro di pochi minuti. Ciao, la modifica che hai effettuato è sembrata essere un test. Per questo motivo è stata rimossa e la pagina ripristinata. Dopo un momento di scoraggiamento, ho pensato che si trattasse di un messaggio automatico e ho risposto cercando un interlocutore umano, dato che la correzione era giustificata. Avevo tolto un testo che compariva due volte. Mi si risponde così. Ho ripristinato il testo originale, privo della duplicazione. È importante inserire l'oggetto della modifica, cioè un breve commento che descriva l'intervento apportato alla voce, per aiutare gli altri utenti a comprendere la modifica effettuata. Le rimozioni del testo non motivate vengono in genere annullate, riportando la voce alla revisione precedente. Grazie e buon lavoro. Che cosa succede qui? Un algoritmo trova le modifiche non accompagnate da un commento e le interpreta come atti di vandalismo, piccolo o grande. In assenza di prove per il contrario, riporta la pagina alla versione precedente. Se però comincia una discussione, qualcuno valuta la bontà della correzione e interviene manualmente. Il mio editor risulta essere un amministratore, una carica elettiva nella comunità degli utilizzatori di Wikipedia. Il suo lavoro è volontario e viene retribuito soltanto con un'onorificenza virtuale. È un cavaliere del lavoro oscuro. Grazie a persone come lui, un organismo informatico complesso come Wikipedia resiste al vandalismo, allo spam e a forme più insidiose di intervento editoriale, come per esempio l'autopromozione, il maquillage biografico e la riscrittura della storia e perfino della scienza. Non è una battaglia facile. Ma non è una battaglia facile in generale quella di chi lavora a preservare il tesoro della conoscenza. Wikipedia viene spesso criticata, ma come sempre bisogna paragonare il paragonabile. L'apertura resa possibile dal Wiki tiene in equilibrio il rischio dell'intrusione e la possibilità della correzione. Le controversie ideologiche possono venire in qualche misura circoscritte. Un orizzonte fattuale viene presupposto da autori e lettori. Qualche opinione discordante sull'anno dell'affondamento del Titanic la si può sempre trovare e qualcuno magari ha dei dubbi sul denunciato della congettura di Goldbach, ma alla fine un'enciclopedia si basa sul presupposto che i fatti finiranno col farsi sentire. Quello che fa più impressione è la dimensione ridotta delle infrastrutture logistiche e umane della Wikipedia Foundation. La campagna annuale per il finanziamento, basato esclusivamente su doni, vive di paragoni con l'imparagonabile. Google si avvicina ad avere 1 milione di server. Yahoo ha qualcosa come 13.000 dipendenti. Noi abbiamo 679 server e 95 dipendenti. Wikipedia è il quinto sito più visitato al mondo e viene usato da più di 450 milioni di persone, con miliardi di pagine visualizzate. Si potrebbe obiettare che c'è molto lavoro volontario nascosto, che non viene inserito in quelle statistiche. Il lavoro di chi scrive le voci e di editor, come quello che mi ha corretto. Ma attenzione, Facebook, Yahoo e Google, che sono imprese commerciali, stanno anch'esse sedute su una montagna di lavoro volontario. Ogni volta che aggiornate il vostro profilo, o che fate un link da una pagina a un'altra, o inviate una mail con le loro applicazioni, state lavorando sodo a nutrire gli algoritmi commerciali di queste imprese e non controllate il risultato, come fate con Wikipedia. Wikipedia è da sempre una fucina di progetti interessanti. Per esempio, Wikipedia Zero, una serie di negoziati con operatori mobili per permettere l'accesso gratuito in paesi in cui la connessione è molto costosa. Consultare Wikipedia è visto come comporre un numero di emergenza, che per l'appunto non si paga. Ma chi paga o dovrebbe pagare? Ciascuno di noi ha ragioni per sostenere questa o quella non profit. Per Wikipedia la mia ragione è il fatto che la uso spesso ed è senza pubblicità e mi sembra normale fare un dono. Preferisco donare, non essere sepolto da banners e difendere l'indipendenza del progetto. Ma mi sembra ancora più importante invitare a contribuire alla costruzione dei contenuti. Una ricerca mostra che non sono ancora abbastanza gli utenti che sanno di poter modificare le voci senza chiedere permesso a nessuno. Intellettuali, ricercatori, insegnanti, studenti dovrebbero aiutare la costruzione di questo spazio pubblico. Ci si preoccupa del fatto che i propri studenti possano copiare e incollare contenuti da Wikipedia quando fanno le loro ricerche. Si può rovesciare questa preoccupazione come un guanto, prendendo a modello il Global Education Program che porta Wikipedia nelle università di Brasile, India, Canada e Stati Uniti per trasformare in voci dell'enciclopedia i compiti a casa, in sistemi universitari in cui si scrive molto per essere valutati. Possiamo anche noi richiedere che le nostre e quelle ricerche dei nostri studenti siano degne di venire pubblicate su Wikipedia e pubblicarle o farle pubblicare. È una buona scuola scoprire come i propri testi possono venire editati e discussi nello spazio pubblico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Casati dall'inserto culturale Domenica in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Una curiosa interpretazione del personaggio di Babbo Natale. Nell'editoriale del mensile Mente e Cervello, Marco Cattaneo illustra e commenta i diversi significati che ha Babbo Natale nella nostra società. E, come spiega, non è un tema caro solo ai bambini. Era il Natale dopo il mio quarto o quinto compleanno. Nella penombra del salotto, sotto l'albero d'ordinanza, si intravedeva solo un grosso sacco di juta. Una frazione di secondo e sono scoppiato in un pianto dirotto. Lì dentro non poteva esserci altro che il carbone, destinato a un bambino irrimediabilmente cattivo. Convinto a fatica dai genitori, ho aperto lentamente quel sacco per scoprirci una montagna delle mie costruzioni preferite. Ricordo la gioia, il sollievo, come fosse oggi. Non ho la più pallida idea, invece, di quando quel vecchio panzone in costume rosso e con la lunga barba bianca sia scomparso dai miei schermi radar. Con il pragmatismo feroce dei bambini, devo aver pensato che, tutto sommato, era meglio perdere Babbo Natale che i regali. Eppure questa perdita è un passo cruciale verso il mondo degli adulti, sia che si tratti di una delusione cocente o di una dipartita che passa relativamente inosservata. E naturalmente i genitori hanno un ruolo di primo piano, tanto nella genesi quanto nell'elaborazione di questo metaforico lutto. A proposito di genitori, se infatti è ormai accertato che una donna in gravidanza è travolta da una cascata ormonale che ne sconvolge il normale assetto fisiologico e cerebrale, da qualche tempo a questa parte anche i neopapà sono finiti sotto la lente dei neuroscienziati. E la novità, piuttosto sorprendente, è che quando un uomo diventa padre, anche nel suo cervello spuntano nuovi neuroni. Sembra che la loro funzione sia creare circuiti che promuovono la cosiddetta memoria sociale, una forma di memoria che contribuisce al legame con il bambino. E poi ci sono gli ormoni. Calano bruscamente i livelli di testosterone, mentre ossitocina e prolattina, proprio come nelle madri, assumono un ruolo centrale. Diventare genitori, insomma, innesca un cataclisma biologico che predispone ad accogliere i figli. Ci sono persone, invece, e sono una parte consistente dell'umanità, che vivono nell'attesa di cataclismi che non accadranno mai, sempre pronti ad accogliere come oro colato ogni più nefasta profezia, sono afflitti da una sindrome dell'apocalisse che non guarisce nemmeno quando l'appuntamento con la fine del mondo è rinviato a oltranza. Forse accade in epoche in cui gli individui sentono di vivere una crisi sociale e culturale che investe la loro stessa identità. Così oggi c'è chi accende un mutuo per comprare casa a Bugarash, villaggio francese che, si dice, si salverà dal fatidico 21 dicembre 2012, previsto dal calendario Maya. E le agenzie immobiliari locali fanno affari d'oro, a dimostrazione che per qualcuno Babbo Natale non muore mai. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Cattaneo «Si fa presto a dire Babbo Natale» dall'ultimo numero della rivista Mente e Cervello, gruppo L'Espresso Editore.